Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Nuovi dati Istat, l'economia rallenta e sale il rapporto debito-PIL, il peggiore da 15 anni. Proteste contro l'alta velocità in Val Susa, oggi riunione straordinaria a Palazzo Chigi. Firmato a Bruxelles il patto di bilancio europeo, ora gli stati dovranno ratificarlo. Lucio Dalla ha lasciato Losanna, da domani camera ardente nel centro di Bologna. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. 25 dei 27 leader europei hanno firmato il Fiscal Compact, il patto di bilancio che obbliga i Paesi membri ad inserire nella loro legislazione il principio dell'equilibrio di bilancio, tante entrate quante uscite. Dal patto sono, come previsto, rimaste fuori Gran Bretagna e Repubblica Ceca ed ora i parlamenti dei 25 firmatari dovranno ratificare il patto. Di questo ci occuperemo più tardi nella seconda parte di GR24, ora parliamo dell'economia italiana. L'Istat ha aggiornato questa mattina gli indicatori fondamentali che descrivono il rapporto tra conti pubblici e andamento dell'economia. Un paese che arranca, dove la crescita rallenta e il debito è elevato, la pressione fiscale alle stelle e le famiglie spendono poco. È un ritratto noto, quello del nostro paese, ma renderlo più impietoso è la certificazione in numeri che arriva dall'Istat. Nel 2011 si registra una netta frenata della crescita rispetto al più 1,8 del 2010. Il PIL è infatti cresciuto solo dello 0,4%, mentre si stimava almeno 1,06. Vola oltre il 120% il debito pubblico nel 2011 ai massimi da 15 anni. Migliora invece, seppur di poco, il rapporto deficit-PIL, che si attesta a 3,9 contro il 4,6 di due anni fa. E poi il capitolo consumi. Quelli delle famiglie sono rimasti fermi, mentre sono addirittura diminuiti gli acquisti per i generi alimentari. Una conferma che arriva anche dalla Coldiretti. Le tavole degli italiani si sono impoverite. Meno carne, verdura, frutta, persino meno latte, mentre aumenta il tempo dedicato alla spesa perché si fa più attenzione ai prezzi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. I depositi delle banche presso la BCE hanno raggiunto ieri la cifra record di 777 miliardi di euro, oltre 300 miliardi in più rispetto al giorno precedente. Mercoledì, lo ricorderete, gli istituti di credito europei avevano chiesto in prestito alla Banca Centrale Europea 529 miliardi di euro ad un tasso dell'1%. Per il momento quindi le banche tengono il denaro in deposito presso la BCE. Mario Monti tornerà da Bruxelles nel pomeriggio a Roma, dove è stata convocata una riunione straordinaria sui lavori della Torino-Lione. Il governo tira dritto sulla TAV. Sull'alta velocità la linea resta la stessa, ha ripetuto ieri sera a Bruxelles Mario Monti. Nel pomeriggio il premier ha convocato una riunione a Palazzo Chigi per verificare lo stato di avanzamento nelle necessarie misure di sicurezza sui lavori della Torino-Lione. A prendere parte all'incontro saranno il ministro degli interni Cancellieri, quello dello sviluppo economico Passera, il sottosegretario Catricalà e il commissario straordinario di governo Virano. La posizione dell'esecutivo è stata espressa in modo chiaro: rigoroso rispetto delle normative italiane ed europee in materia ambientale, ma anche fare le infrastrutture che servono a questo paese, ha ripetuto stamattina il ministro dell'ambiente Clini. Sulla stessa linea anche la collega di governo Cancellieri: margini non ce ne sono, l'opera è di valore fondamentale per il paese, non solo per il Piemonte, e fa parte di impegni presi con l'Europa, non ci sono spazi, ha sottolineato la responsabile del Viminale, la quale ha comunque ammesso che la situazione in Val di Susa è delicata perché l'alta velocità è ormai diventata un simbolo per gli antagonisti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La TAV, l'alta velocità in Val Susa, è davvero un'opera strategica e utile? Se lo continuano a domandare molti italiani, soprattutto in questo tempo di crisi. Abbiamo sentito il parere di due tecnici, uno pro, uno contro. Iniziamo da Carlo Alberto Barbieri, docente di urbanistica al Politecnico di Torino presso l'Osservatorio sulla nuova linea Torino-Lione. Lo ha intervistato Anna Marino. L'opera era, è e sarà strategica.

del progetto che hanno chiamato Blocchiamo Tutto. Ma chi c'è oltre ad Ascatasuna? Ci sono gli operai della FIOM, i grillini del Movimento 5 Stelle, gli studenti universitari e i black bloc francesi e greci che alla bisogna arrivano a rinfoltire le fila del movimento Notav. Insomma, si domanda una signora sulla pagina Facebook proprio di Ascatasuna, dove è finito il tema dell'alta velocità in Val di Susa? E in effetti questo se lo stanno domandando tutti i valligiani che sono contrari al progetto e sono anche contrari ai modi della protesta di questi giorni. Tra loro ci sono i sindaci del PD, la Coldiretti, WWF, Lega Ambiente, che la protesta l'hanno fatta marciando pacificamente e attraverso ricorsi legali contro il progetto e contro il cantiere. Poi ci sono le anime stanche, coloro che non ne possono più e che, quando c'è stato da votare nel 2009, hanno scelto il centrodestra favorevole alla Torino-Lione, ribaltando la giunta precedente. Questo voto ha valore, come ha valore il fatto che la popolazione locale, quella toccata direttamente dalla Torino-Lione, non è mai stata chiamata a esprimersi tramite referendum. Oggi hanno paura dell'esito del voto più i Notav che non i Sitav, perché a contarli ora sono più quelli che vengono da fuori che non i valligiani a protestare. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla Torino-Lione, alle proteste, alla situazione generale, con una riflessione della redazione di Radio 24. Le autostrade, i treni bloccati, le aggressioni ai cronisti, i gesti disperati, il dileggio al poliziotto. Da quanto andiamo avanti così, coi Notav che non ascoltano ragioni e la politica che non disinnesca la protesta violenta? Adesso si dà del pecorella a Monti, ma gli ultimi governi? Cosa hanno fatto gli ultimi governi per spegnere il fanatismo? Nulla. E così siamo qui, stanchi di questo ribellismo da strapazzo che naturalmente riapre il dibattito su Pasolini, sugli anni 70, sulla destra e sulla sinistra. No, il dibattito no, abbiamo già dato. Poi così non si capisce nulla, neanche se la TAV sia davvero utile o sia solo un simbolo su cui scannarsi. Servono risposte urgenti anche da questo governo, che magari non c'entra, ma come ha messo in sicurezza lo spread, dovrà spegnere anche questo incendio. Un'ultima cosa, va bene l'alta velocità per arrivare a Lione, ma la bassa velocità per arrivare a Mantova? A fermare i treni regionali non sono i blocchi. Basta una nevicata. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seconda parte di GR24, queste le notizie principali. Oggi sono stati pubblicati nuovi dati Istat, l'economia come previsto rallenta, sale il rapporto debito-PIL, è il peggiore da 15 anni. Sulle proteste contro l'alta velocità in Val Susa, oggi ci sarà una riunione straordinaria a Palazzo Chigi. È stato firmato a Bruxelles il patto di bilancio, ora gli stati dovranno ratificarlo e poi parleremo anche di Lucio Dalla. Il feretro ha lasciato Losanna, da domani la camera ardente sarà allestita nel centro di Bologna. E come avete sentito anche dai nostri titoli, 25 dei 27 leader europei hanno firmato il Fiscal Compact, il patto di bilancio che obbliga ora i paesi membri ad inserire nella loro legislazione il principio dell'equilibrio di bilancio. Allora, per spiegarci anche che cosa significa questo Fiscal Compact, è con noi Sergio Nava. Buongiorno Sergio. Buon pomeriggio Rico, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, vertice concluso a Bruxelles con poche novità, anche perché nel corso della due giorni sono stati accuratamente schivati i temi più spinosi, quali l'incremento del fondo salva stati ISM. Allora, come dicevi, 25 paesi europei, Gran Bretagna e Repubblica Ceca escluse, hanno firmato questa mattina il trattato intergovernativo Fiscal Compact, che è stato varato nel Consiglio europeo straordinario di gennaio, un trattato che mette nero su bianco regole precise sul rigore di bilancio, pareggio nei conti, stretta antidebito, iscrizione delle regole sui bilanci in ordine anche nelle leggi nazionali. L'Irlanda ha già annunciato, tra l'altro, che terrà un referendum, una decisione che non ha proprio suscitato grande felicità a Bruxelles. Questi, abbiamo detto, sono alcuni dei punti di un trattato che, ricordiamo, è stato fortemente voluto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Ora le attenzioni dei leader europei si spostano sulla fase di crescita. Col vertice di oggi si è aperta una nuova fase della governance economica, ha proclamato il presidente della Commissione Barroso, ancora più euforico il francese Sarkozy, abbiamo voltato pagina. E guardando un po' le conclusioni del summit, a quanto è dato capire, le principali misure pro crescita riguarderebbero soprattutto l'accelerazione dell'iniziativa sui project bonds, sui quali si punta un accordo entro giugno, insieme a una svolta sulla maggiore integrazione del mercato unico. Impegni importanti sui quali però occorrerà adesso concretizzare. La cancelliera tedesca Angela Merkel è sembrata poi tornare sulla polemica tra il suo paese e il presidente della BCE Draghi. Le azioni della BCE hanno permesso all'Europa di guadagnare tempo e i mercati appaiono più calmi, ma ora è importante evitare che la liquidità a basso costo possa portare alla formazione di una bolla speculativa, ha avvertito la Merkel, chiudendo almeno per ora la polemica. Cattive notizie invece per la Spagna, che non ha di fatto ottenuto alcuna dilazione sulle nuove manovre di austerità dopo il peggioramento nei conti pubblici. E infine il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha annunciato l'intenzione di non ricandidarsi alla carica. È tutto. Bene, grazie. Sergio, tu ci hai parlato del Consiglio europeo che ha discusso anche della situazione in Siria, impegnandosi a preparare ulteriori misure restrittive mirate contro il regime siriano. La politica delle sanzioni quindi proseguirà fino a quando continueranno le violenze, hanno assicurato i 27 leader europei. E in Siria, dopo la presa di posizione delle Nazioni Unite che deplorano il deterioramento della situazione umanitaria, oggi un convoglio di aiuti del Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è partito da Damasco. I mezzi sono diretti a Homs, ma procedono a rilento a causa della neve. Intanto proprio nella città, che per circa un mese è stata bersaglio dei bombardamenti del regime, c'è una manifestazione pacifica, centinaia di manifestanti sventolano bandiere siriane dell'indipendenza e invocano aiuti militari all'esercito libero dei disertori. Le truppe governative, lo ricordiamo, sono entrate ieri a Bab Amr, un quartiere di Homs, roccaforte dei disertori. Un'altra notizia che riguarda la Siria arriva dalla Francia, che ha deciso di chiudere la sua ambasciata a Damasco. Oggi le urne sono aperte in Iran per le elezioni legislative, in cui circa 48 milioni di elettori saranno chiamati a scegliere il nuovo parlamento iraniano. Ci aggiorna e ci racconta l'atmosfera che si vive in diretta da Teheran, Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Mi trovo proprio in questo momento in uno dei seggi più noti della capitale, dove c'è il dormitorio dell'Università di Teheran, che è stato protagonista negli anni passati delle rivolte studentesche contro il regime, ma oggi l'atmosfera è assolutamente tranquilla. Quanta gente sta andando ai seggi? Questa è la vera domanda che si sta facendo la Repubblica Islamica. L'affluenza non mi sembra certamente quella paragonabile alle elezioni del 2009, quando l'Onda Verde tentò di battere alle urne Ahmadinejad. Direi che è piuttosto scarsa, ma in compenso la macchina della propaganda è molto ben oliata e addirittura in alcuni seggi elettorali, uno famoso è quella dello Senior Shad di Ali Shariati, uno degli ideologi del regime che morì negli anni 70, bene, lì addirittura è stato messo un set televisivo per riprendere i votanti, insomma una sorta di show elettorale per rafforzare l'immagine della Repubblica Islamica. Grazie ad Alberto Negri, buon lavoro. Alberto Negri è inviato del Sole 24 Ore a Teheran per questo appuntamento importante che seguiremo anche in altre edizioni di GR24. Una notizia che arriva dall'India: l'alta corte di Kochi ha rinviato a martedì 6 marzo il dibattito sul ricorso presentato dallo Stato italiano sulla giurisdizione nel caso dei due militari italiani accusati dell'uccisione di due pescatori indiani. Torniamo in Italia per parlare delle proteste delle banche sulle nuove norme che le riguardano e naturalmente se ne sta parlando in Parlamento, al Governo, per cercare di porre un rimedio, trovare un compromesso. Sentiamo in particolare in questo servizio. Una follia. Le parole usate oggi da Pier Ferdinando Casini per descrivere la nuova norma approvata ieri con il decreto liberalizzazioni, che prevede l'azzeramento delle commissioni sulle linee di credito, descrive un sentimento abbastanza diffuso in Parlamento. Anche il leader del PD, Pierluigi Bersani, è piuttosto critico, ma visto che l'emendamento l'ha presentato una senatrice democratica, vuole che si pronunci il governo, il quale a sua volta, dopo l'alzata di scudi e le dimissioni in polemica dei vertici dell'ABI, dopo le critiche della Confindustria che teme, in conseguenza del provvedimento, un aumento dei tassi di interesse, fa capire chiaramente che sì, si può cambiare, ma vuole che si pronuncino Camera e Senato. Certamente questo non avverrà nello stesso decreto, i cui tempi stretti di approvazione non sembrano consentire modifiche alla Camera, che porterebbero ad una nuova doppia lettura parlamentare. La strada è quella del DDL sulle semplificazioni all'esame di Montecitorio. Un emendamento, per così dire correttivo, sarebbe stato già presentato dai relatori Saglia e Giovanelli. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora la nostra rubrica quotidiana sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Da 2 a 3.000 euro per una separazione consensuale, fino a 10.000 se si arriva al contenzioso e spesso in nero. Il divorzio è tornato al centro del dibattito per le novità sulla separazione breve e gli avvocati fanno i conti. In generale, il guadagno medio della categoria è stimato in 46.000 euro lordi l'anno, ma le dichiarazioni dei redditi non tengono conto delle parcelle in nero, nel civile come nel penale. Da una recente inchiesta di Altroconsumo su chi si è rivolto a un avvocato negli ultimi 10 anni, risulta che solo 4 su 10 ha ricevuto regolare fattura. Il 16% ha dichiarato di averla ricevuta, ma solo per una parte dei pagamenti. Il 44% invece ha pagato totalmente in nero. Quindi in 4 casi su 10 gli avvocati hanno incassato senza pagare tasse. Particolarmente grave, soprattutto se si considera che stiamo parlando di professionisti della giustizia. Fra i clienti che hanno ricevuto la fattura, 1 su 10 ha dovuto chiederla esplicitamente e il 7% ha dovuto pagare un importo maggiorato per averla. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento. Il carro funebre che trasporta il feretro di Lucio Dalla, lasciato Losanna in Svizzera, diretto a Bologna, da domani nel centro della capitale, del capoluogo emiliano, verrà allestita la camera ardente. Ma sentiamo ancora un ricordo di Lucio Dalla. Lucio Dalla è stato un grande poeta e le sue poesie hanno fatto sognare la mia generazione, ha detto il ministro del turismo Piero Gnudi. Un'affermazione questa fatta da un bolognese doc, come il cantautore appena scomparso, che ha così ben sottolineato uno dei motivi per cui più sentiremo la mancanza di Dalla dalla scena musicale. Il suo talento e la bellezza delle sue canzoni non si esprimeva infatti soltanto con le note, ma soprattutto attraverso la grande qualità dei testi, spesso scritti da veri poeti. Proprio come quella Paola Pallottino che gli ispirò 4 marzo 1943, un brano entrato nella storia della canzone con cui nel 1971 si presentò a Sanremo ottenendo il terzo posto in classifica. E l'attenzione alla qualità letteraria e poetica dei testi delle sue canzoni è diventata il comun denominatore di tutta la sua produzione musicale ed autoriale. Quasi 50 anni di carriera vissuta attraverso più di 600 canzoni fra tradizione e sperimentazione. Impossibile non ricordare anche la sua lunga e fortunata collaborazione con un altro grande poeta, Roberto Roversi, che per lui scrisse i testi di molte delle canzoni contenute nella cosiddetta trilogia, composta dagli album Il giorno aveva 5 teste, Anidride solforosa e Automobili, per citarne una famosa, Nuvolari. Con Lucio Dalla scompare dunque un maestro della musica italiana i cui straordinari successi continuano ad emozionare e fare proseliti. La sua perdita però non riguarda solo la storia della musica, ma l'intero mondo della cultura, che senza di lui dovrà ora fare a meno di uno dei suoi interpreti più originali, sensibili ed innovativi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini. Grazie anche a Fabio Cantadori che si è occupato della parte tecnica. GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.